Sura 95esima. At-Tin. Il fico. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per il fico e per l'olivo. Per il monte Sinai e per questa contrada sicura. In vero creammo l'uomo nella forma migliore. Quindi lo riducemmo all'infimo dell'abiezione, eccezion fatta per coloro che credono e fanno il bene. Avranno ricompensa inesauribile. Dopo di ciò, cosa mai ti farà tacciare di menzogna e giudizio? Non è forse Allah il più saggio dei giudici?